Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Roma candidata alle Olimpiadi 2020 fuori Venezia, poco fa la decisione del CONI. Guerriglia nelle strade di Bangkok, a fuoco la borsa e la TV, negli scontri muore anche un fotografo italiano. La Merkel, se fallisce l'euro, fallisce anche l'Europa, giù le borse questa mattina. Omicidio Claps, fermato a Londra restivo, accusato di aver ucciso una vicina di casa. Buongiorno dalla redazione di GR24 da Maria Piera Ceci. In primo piano la decisione del CONI sulle Olimpiadi 2020, come è andata l'avete sentito nei titoli. Ci colleghiamo con la sede del CONI e con Maria Chiara Grandis. Sì, buongiorno. Il Consiglio Nazionale del CONI ha deliberato in questo momento e ha deciso che sarà Roma, dunque, la città candidata a ospitare le Olimpiadi nel 2020. Questo perché i parametri tecnici favoriscono la capitale, per esempio dimensione, esperienza nell'organizzazione di questo tipo di eventi, che è stata la scelta che ha fatto decidere il Consiglio Nazionale, ma anche il budget, le infrastrutture, gli impianti già presenti come i due poli Fiera di Roma e Tor Vergata. Il Consiglio Nazionale ha approvato la delibera della Giunta assegnando 32 punti a Roma contro i 20 di Venezia, e ad aprire la riunione del Consiglio è stato il Presidente del CONI Gianni Petrucci, che ha detto: noi partecipiamo per vincere, vogliamo portare la candidatura più credibile al vaglio del Comitato Olimpico Internazionale, che deciderà nel luglio 2013 la sede dei Giochi Olimpici. E sulle polemiche dei giorni scorsi, dopo le indiscrezioni che davano Roma come favorita a prescindere, Petrucci ha detto di garantire sulla serietà della commissione, che assicura ha lavorato alla luce del sole senza pressioni di alcun tipo. E per il momento qui dal Foro Italico è tutto, linea a voi. Grazie a Maria Chiara Grandis. Dunque soddisfazione a Roma, nel pomeriggio è prevista una dichiarazione del sindaco Alemanno, prevedibilmente meno soddisfazione invece si avverte a Venezia. E allora con Silva Menetto nel comune di Venezia, come va? Sicuramente qui c'è molta molta delusione, perché chiaramente, come avete già anticipato, ci sono state delle notizie nei giorni scorsi che già prevedevano questa vittoria di Roma su Venezia, notizie che francamente erano scarsamente comprensibili. Con noi c'è il sindaco Giorgio Orsoni, che ha accettato di dire a caldo una sua opinione. Eccolo a voi. Pronto. Orsoni, non è andata un granché, attesa questa decisione, perché insomma da giorni se ne parlava, insomma come si sente oggi, che cosa si sente di dire? Ma mi sento molto deluso, e devo dire, trovo questo modo di comportarsi del CONI a dir poco vergognoso, perché era una decisione scritta da prima, quindi in quanto tale non può che lasciare un amaro in bocca, perché dimostra tutta l'insufficienza dei vertici del nostro sport italiano, che negli ultimi tempi hanno inanellato solo insuccessi nelle varie manifestazioni internazionali. Ecco, lei qualche giorno fa aveva usato anche parole molto forti ai nostri microfoni, insomma aveva già espresso la sua rabbia, la sua delusione. Beh, credo che sia una delusione non solo del sindaco di Venezia, ma di tutto il Veneto, non solo di Venezia ma di tutto il Veneto, perché vuol dire che a fronte di una candidatura di Roma non si può presentare nessun'altra candidatura seria come è stata la nostra, perché viene bocciata a priori. Perché Venezia meritava questo appuntamento? È assolutamente ridicolo dire che Venezia non è in grado di gestire eventi internazionali, quando è la città in Italia che più presenze di turisti, anche più di Roma. Quindi questo mi sembra la dica lunga sulla serietà e sulla obiettività con cui è fatta questa scelta. Grazie al sindaco di Venezia Orsoni, grazie alla nostra corrispondente Silva Menetto. E noi invece andiamo all'estero per gli aggiornamenti dalla Thailandia. A Bangkok l'esercito ha circondato questa mattina l'accampamento delle Camicie Rosse usando anche mezzi blindati. I leader dei manifestanti antigovernativi thailandesi hanno annunciato la resa alle autorità e molti manifestanti si stanno dando ad atti di vandalismo in vari punti della città, incendiati il Palazzo della Borsa, la sede della TV, un centro commerciale e due municipi. Questo pomeriggio scatterà il coprifuoco. E negli scontri sono morte almeno 5 persone, fra questi anche un italiano. Si chiamava Fabio Polenghi ed era un fotoreporter di Milano. Fra i feriti un giornalista canadese colpito dall'esplosione di una granata. Polenghi aveva realizzato anche un documentario, Linea Cubana, insieme al regista e fotografo francese Fabrice Laroche. Sentiamolo al microfono di Roberto Bonaldi. Fabio era generoso. Ha iniziato come fotografo di moda per diventare poco a poco un reporter. Non amava prendere posizioni su quello che fotografava. Voleva solo fare una descrizione di quello che succedeva. Non giudicava e non amava il pericolo. Amava davvero il suo lavoro. Per lui era importante farlo, senza altre ragioni. Fabio amava introdursi in tutte le culture e gli stati sociali. Era gentile, ascoltava la gente, era felice. Non era uno sprovveduto. Non cercava di mettersi in mostra. Non cercava la gloria. L'unica cosa che gli interessava era poter parlare di quello che amava. Sono molto, molto triste. Ed è atterrato questa mattina a Ciampino il C-130 dell'aeronautica militare con le salme dei due alpini morti lunedì in Afghanistan in un attentato. Una cerimonia breve ma caratterizzata da una forte commozione, quella di stamani all'aeroporto militare di Ciampino, dove le massime autorità dello Stato hanno accolto le salme dei due alpini uccisi in Afghanistan. Disperato il pianto della madre del giovane caporal maggiore scelto Luigi Pascazio, che è stata sorretta da una soldatessa per l'intera cerimonia. Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, visibilmente commosso, si è staccato dal gruppo delle autorità per andare a confortarla e poi ha voluto salutare ancora una volta i parenti dell'altro caduto, il sergente maggiore Massimiliano Ramadù. Prima dell'arrivo delle salme, infatti, il capo dello Stato aveva già incontrato i familiari dei due soldati in una saletta dell'aeroporto militare di Ciampino. Fino alle 20 di questa sera resterà aperta la camera ardente al Celio, mentre domattina alle 10 si terrà la cerimonia funebre a Santa Maria degli Angeli a Roma. Sempre alle 10 di domani, infine, nel Duomo di Bolzano, una messa a suffragio. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. Emergono nuovi particolari dall'inchiesta che si occupa della morte del presidente polacco Lech Kaczynski sul Tupolev precipitato a Katyn in Russia il 10 aprile scorso. Come ricorderete, ci sarebbero state due persone estranee all'equipaggio nella cabina di pilotaggio dell'aereo. Non solo, i piloti sarebbero stati informati 4 minuti prima dello schianto, in cui morirono 95 persone, che non c'erano le condizioni per l'atterraggio. L'inchiesta al momento esclude comunque l'ipotesi di terrorismo. E siamo alla pagina economica con le borse che questa mattina tornano ad andare giù, ci aggiorna Deborah Rosciani. Sì, torna ad essere alimentato il nervosismo degli investitori dopo le misure restrittive che sono state imposte dalla Germania e dall'autorità di controllo sui mercati finanziari sulle vendite allo scoperto su titoli azionari legati a 10 grandi colossi finanziari tedeschi e su bond governativi. Peraltro, a pesare stamattina, poi vi diremo quanto stanno perdendo le borse, ci sono anche le dichiarazioni del cancelliere tedesco Angela Merkel, che aprendo al Bundestag il dibattito sul pacchetto anticrisi europeo ha detto: l'euro è in pericolo e se la valuta unica dovesse fallire allora fallisce anche l'Europa. La crisi dell'euro, ha ribadito, è la prova più difficile per l'Europa. Quanto perdono i listini europei? Meno 2,5 Parigi, meno 2,32 Francoforte, meno 2,27 Londra, Milano meno 3,5 punti, scendono a picco tutti i titoli del settore bancario ancora una volta, ma stamattina di tutto questo ne subisce le conseguenze anche l'euro sul dollaro, scivolato a 1,2141, adesso risale la china, riconquista 1,22, ma naturalmente la debolezza continua a pervadere fortemente la moneta unica europea ai minimi da 4 anni. Sul biglietto verde è tutto. Grazie Deborah Rosciani, anche se le sue non erano buone notizie. Oggi incontro Berlusconi-Tremonti sulla manovra correttiva, ce ne parla Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Con l'incontro tra il premier e il responsabile dell'economia si entra di fatto nel vivo della definizione della manovra. Tremonti illustrerà a Berlusconi le linee guida del provvedimento che dovrebbe essere approvato entro luglio. L'intervento correttivo per il prossimo biennio non prevede nuove tasse e questo è un punto fermo per lo stesso Presidente del Consiglio. Si colpirà invece la spesa pubblica improduttiva, passando poi per la lotta agli sprechi, evasori e falsi invalidi tra tutti. Vi sarà un taglio dei privilegi, annunciato lo stesso Tremonti, parlamentari e non solo, manager di Stato, presidenti di autorità autorità. Si interverrà anche sul patrimonio immobiliare, sarebbe pronta una verifica sulle cosiddette case fantasma che potrebbe far recuperare, con un'eventuale regolarizzazione, fino a circa 2 miliardi di euro. Altro capitolo, la sanità, settore questo che vedrà delle riduzioni di spesa. Sempre oggi il ministro competente Fazio incontra le regioni più a rischio, Lazio, Campania e Molise. Sulla crisi economica interviene infine lo stesso Berlusconi, che spiega: andremo avanti con il programma di governo e comunque entro 3 anni ridurremo la pressione fiscale. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. Sei un evasore fiscale, via il diritto di voto. Siete d'accordo? Era il nostro sondaggio di oggi. La premessa è che si è trattato più che altro di uno sfogo. Lo scrittore Antonio Scurati ha lanciato la sua protesta contro quella che definisce l'Italia dei due partiti, quello dei lavoratori dipendenti che pagano le tasse e quello dei liberi professionisti, commercianti e qualche imprenditore, per lui il partito degli evasori fiscali. E io, dipendente, ha detto, sono stanco di pagare con le mie tasse i loro privilegi, tanto da arrivare a una proposta forte: si tolgano i diritti civili, a cominciare dal diritto di voto, a chi non paga le tasse. Un'invettiva che è diventata il nostro sondaggio di oggi e che l'82% degli ascoltatori sottoscrive. Scurati insiste. Quando io esco per strada e vedo manifestazioni anche ormai ostentate, no, di una ricchezza, che è una ricchezza illegale, sottratta appunto alle regole del vivere civile, 100.000 auto di lusso immatricolate ogni anno in Italia, 70.000 panfili con più di 17 metri, quando io le vedo, no, e le raffronto proprio sulla mia pelle, alla mia modesta capacità di consumo e di spesa, quello grida vendetta. Bianco o Nero torna domattina alle 8.30 per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. E oggi il voto in commissione bicamerale sul cosiddetto demanio federale. Stamattina si è registrata una strana convergenza politica. Elisabetta Fiorito. Sì, una accoppiata di sicuro particolare, quella tra Roberto Calderoli e Antonio Di Pietro, eppure a Montecitorio siglano l'accordo sul federalismo demaniale, un punto di incontro tra Lega Italia dei Valori, annunciato in una conferenza stampa congiunta. L'IDV voterà a favore del decreto legislativo che domani, annuncia Calderoli, sarà anche votato dal Consiglio dei Ministri. Speriamo, dice il leader della Lega Nord Umberto Bossi, un po' scaramantico, sono gli ultimi passi, aggiunge, ora c'è solo il voto in commissione bicamerale. Ma non mancano le polemiche all'interno dell'opposizione, perché Di Pietro accusa il Partito Democratico di non essere né carne né pesce, cioè di non avere il coraggio di assumersi le responsabilità e di scegliere l'astensione. Per Di Pietro invece il federalismo demaniale può essere un provvedimento che unisce ed è un peccato che sia l'ennesima fonte di divisione. Tocca poi al ministro dell'Economia Giulio Tremonti precisare che il trasferimento di beni demaniali dallo Stato alle autonomie locali avrà un effetto neutrale sul debito, ma produrrà invece effetti positivi sulla valorizzazione dei beni immobili. La riduzione del debito, spiega Tremonti, rimane connessa allo stock di ricchezza prodotta dal Paese. E per il momento qui da Montecitorio è tutto, voi studio. E noi ti ringraziamo. Assolti in primo grado, condannati in secondo. Parliamo del processo per i fatti alla scuola Diaz durante il G8 di Genova del 2001. Ne parleremo subito dopo la viabilità. Le notizie della prima parte di GR24. Il CONI ha deciso, Roma candidata alle Olimpiadi 2020. Fuori Venezia, durissimo. Il sindaco di Venezia Orsoni ai nostri microfoni poco fa. Contro Roma evidentemente non esiste la possibilità di nessun'altra candidatura. Guerriglia nelle strade di Bangkok, a fuoco borsa, TV e centri commerciali. Negli scontri muore anche il fotografo italiano Fabio Polenghi. E poi la Merkel, la cancelliera tedesca Merkel, che dice: se fallisce l'euro, fallisce anche l'Europa. Giù le borse questa mattina. Ripartiamo dalle condanne per pene complessive superiori a 85 anni per 25 imputati. I giudici della Corte d'Appello di Genova hanno ribaltato la sentenza di primo grado per i poliziotti responsabili dell'irruzione alla scuola Diaz durante il G8 di Genova del 2001. Le pene vanno da 3 a 8 mesi. Fra i giudicati colpevoli anche Francesco Gratteri e Giovanni Luperi, 4 anni di reclusione e 5 anni di interdizione dai pubblici uffici. Poco fa il commento del sottosegretario all'interno Alfredo Mantovano: questi uomini, dice, hanno e continuano ad avere la piena fiducia del sistema sicurezza e del Ministero dell'Interno. Devono dimettersi, dice invece Heidi Giuliani, madre di Carlo Giuliani, che ieri ha assistito alla sentenza. Sentiamola al microfono di Stefano Totoro. Eravamo davvero talmente meravigliati di ricevere una parola di giustizia dopo 9 anni che siamo rimasti tutti in silenzio. Comunque, quando ci siamo ripresi eravamo davvero contenti, anche perché è il secondo segnale di giustizia che arriva. Il primo è stato la sentenza per Bolzanetto. Naturalmente manca ancora e forse non arriverà mai una parola di giustizia per i molti fatti di strada, i pestaggi arbitrari, le cacce all'uomo, eccetera, eccetera, e per l'uccisione di mio figlio. Avrebbero dovuto dimettersi il giorno dopo, invece hanno fatto tutti carriera e non sono ancora state indicate con chiarezza le responsabilità politiche, che sono anche più grandi. Chiesti 15 anni di reclusione per Luca Bianchini, accusato di essere lo stupratore seriale che fra aprile e luglio aggredì 3 donne in box condominiali nei quartieri Ardeatino e Bufalotta della capitale. Danilo Restivo, l'uomo indagato in Italia per l'omicidio della studentessa Elisa Claps, è stato arrestato questa mattina dalla polizia inglese. Per la terza volta Danilo Restivo sta rispondendo alle domande degli investigatori inglesi. È stato fermato questa mattina alle 6:30 nella villetta dove vive dal 2002, a pochi passi dalla casa in cui 2 anni fa fu barbaramente uccisa l'inglese Heather Barnett. Un testimone lo indicò subito come possibile colpevole. Restivo allora fu fermato 2 volte, ma le indagini si arenarono. A ridare vigore ai sospetti è stato il ritrovamento del corpo della studentessa potentina Elisa Claps, 17 anni dopo la sua scomparsa. Anche allora i sospetti puntarono subito su Danilo Restivo, ma anche allora non furono trovate prove. Ora gli esperti della scientifica inglese stanno passando al setaccio la sua abitazione e su mandato della magistratura italiana è stato prelevato anche un campione di DNA. Una numerosa squadra di agenti sta lavorando senza sosta a questa indagine che dura da troppo tempo, ha detto il detective inglese Mark Cooper della polizia di Dorset che segue il caso. Gli investigatori avranno 72 ore di tempo per trovare elementi di prova ed eventualmente formulare l'accusa. Anna Migliorati, GR24, Il Sole 24 Ore. Scarcerato perché depresso. Salvatore Vitale, boss di Cosa Nostra, condannato all'ergastolo, lascia il carcere di Voghera e torna a casa. Se il regista Harold Ramis leggesse quanto accade in Italia, girerebbe la seconda parte del film Terapie pallottole, che nel 99 parodiò la crisi di un boss di mafia americano alle prese con uno psicoanalista. In Italia, infatti, a distanza di un anno, la realtà supera di nuovo la fantasia. Il 3 giugno 2009 toccò al presunto boss Giacomo Maurizio Ieni, 52 anni, lasciare il regime di 41 bis, anche se scontato nel centro clinico del carcere di Parma, per andare a domiciliari. Motivo ufficiale? Depressione, come deciso il tribunale di Catania, secondo il quale la famiglia appariva insostituibile. Ora a lasciare le patrie galere il mafioso ergastolano Salvatore Vitale, gravemente depresso e sofferente, incompatibile con la detenzione anche per il tribunale di Pavia, che di fatto gli ha dato il via libera per il ritorno a Palermo. Chissà se il tribunale di sorveglianza di Milano, al quale dovrebbe spettare l'ultima parola, penserà al fatto che alla famiglia di Giuseppe Di Matteo, sequestrato proprio da Vitale, quel bambino di 13 anni strangolato e poi sciolto nell'acido appariva insostituibile, così come insostituibili dovevano essere per i familiari anche le persone cadute nella rete del presunto boss Giacomo Maurizio Ieni. Roberto Galullo, GR24, Il Sole 24 Ore. Il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato un'istruttoria nei confronti di Google per verificare la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del servizio Street View. Ovviamente il riferimento è al territorio italiano. Ed ora ci trasferiamo a Cannes, che è anche lezione di cinema, non soltanto dunque film, quest'anno tenuta la lezione da un italiano. Chi è Cristina Battoclet? Sì, buongiorno a voi. Oggi, come dicevate da studio, è la giornata della lezione di cinema. Il protagonista è Marco Bellocchio, che terrà questa lezione alle 17 all'interno del festival. È È un vero onore, un riconoscimento molto importante. Bellocchio, lo ricordiamo, era in concorso a Cannes l'anno scorso con Vincere, il film su Ida Alter, La sposa segreta del Duce, pellicola che riscosse molto apprezzamento da parte del pubblico ma che non ricevette alcun premio. E poche settimane fa, lo ricorderete anche voi, proprio con Vincere Bellocchio ha conquistato il David di Donatello per la regia. Non sappiamo ancora quali sono i contenuti della lezione, ma la seguiremo e vi sapremo dire. Per quanto riguarda invece i film in gara? Dunque, oggi in concorso è la giornata di Poetry del coreano Chang Dong, che è un film su una donna attempata e protagonista è la Grace Kelly, coreana, Jun-ji, che mette la poesia al centro della sua vita, ma deve affrontare la realtà quando si trova di fronte a un nipote che è coinvolto in una banda delinquenziale. Il film è molto bello, molto delicato, invece irrisolto, quello dell'ucraino Losnitsa, che parte bene e racconta le traversie di un camionista, le prese con gli emarginati della società, ma poi finisce, diciamo, in confusione. È importante però segnalare che oggi è in proiezione, ancora in proiezione perché dura più di 5 ore, Carlos, la pellicola del francese Assayà sul terrorista venezuelano Sanchez, detto lo sciacallo, che nel 1965 assaltò il quartier generale dell'OPE, che attualmente sconta l'ergastolo in Francia. È un film che si è atteso molto e farà molto discutere. E vi sapremo staremo a vedere. Grazie a Cristina Battocletti. Vista allora, vi lascio con una notizia che riguarda il modo in cui mangiamo. Sono oltre 2 milioni gli italiani che dichiarano di mangiare sempre pasta a pranzo e a cena 7 giorni su 7. Sono oltre 17 milioni folli per il pane. Lo dice il primo rapporto Coldiretti Censis sulle abitudini alimentari degli italiani, che dice anche molte altre cose interessanti, ma ve ne riferiremo nei prossimi GR24. Ci risentiamo alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Gianfranco Fabi.